Piazza 24, i gialli della storia. Arrestato a Milano l'ingegner Mario Chiesa. Ci sono alcune persone che con la scusa di fare politica hanno commesso dei reati. L'accusa è di concussione. Credo che in realtà questo sia stato un disegno politico. È stato accertato il pagamento complessivo di 150 miliardi in tangenti. I reati che furono perseguiti in molti casi c'erano, non si può parlare di complotto. C'erano spese enormi perché i partiti erano delle grandi aziende. Forlani ha terzo avviso di garanzia per il segretario socialista Renato Craxi. Altissimo, segretario Antonio Cariglia, ex segretario socialdemocratico. È stata una valanga che è venuta avanti con i caratteri della violenza trasgressiva, punitiva, col corteo di suicidi. Hanno creato un clima infame. Fu il momento culminante di una drammatica crisi del sistema democratico in Italia. Colombo, Di Pietro, non tornate indietro! La società si affida ai magistrati, che diventano i simboli. Quanti soldi avete stanziato per il PSI? Quantomeno 1,5 miliardi. La magistratura incombeva sulla politica. 300 milioni. 300 milioni. 200 milioni. Si è voluto far passare per scontro politico l'esercizio doveroso dell'azione giudiziaria portata avanti da quei magistrati onesti che hanno fatto il loro dovere. Eccolo, eccolo! Stanno tirando di tutto! Il problema di questo paese è che non ha rielaborato adeguatamente quello che è avvenuto e si è schierato intorno alla questione di Tangentopoli tra colpevolisti e innocentisti. Ecco, ce ne arrivano addosso anche a noi. Monete, tutto, lanciano tutto. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di quegli anni controversi chiamati Tangentopoli. Ma cos'è stato esattamente quel turbinio di manette che si è abbattuto sulla politica in pochi mesi? È stata la causa o l'effetto della crisi della Prima Repubblica? In ogni caso, l'epoca di Tangentopoli resta uno dei passaggi più controversi della recente storia d'Italia, un passaggio chiave per capire anche il presente. E allora ripartiamo dagli eventi che hanno segnato quella tumultuosa stagione, a cominciare da quel pomeriggio di lunedì 17 febbraio 1992 a Milano. Lunedì 17 febbraio 1992. A Milano i carabinieri arrestano il presidente di una casa di riposo mentre intasca una tangente di 7 milioni di lire. È il primo atto di Mani Pulite, un'inchiesta sulla corruzione avviata da un giovane sostituto procuratore. Bollato dal Partito Socialista come un semplice mariuolo, Chiesa confessa un giro miliardario di tangenti. Ingegnere, perché erano soldi? Dopo le elezioni politiche, l'inchiesta riparte con l'arresto di 8 imprenditori e le loro torrenziali ammissioni. Edilizia, sanità, trasporti, servizi, le indagini si estendono a macchia d'olio. Milano viene ribattezzata Tangentopoli. La procura intanto affianca a Di Pietro i sostituti Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo. Gli avvisi di garanzia si moltiplicano. Dagli amministratori locali si arriva ben presto a Roma, dove il primo indagato eccellente è il segretario amministrativo della Democrazia Cristiana. Venerdì 3 luglio 1992. Dopo la strage di Capaci e l'elezione di Oscar Luigi Scalfaro a presidente della Repubblica, alla Camera interviene il segretario del PSI. Perché presto. Sul finanziamento illecito, dice Craxi, nessun partito è in grado di scagliare la prima pietra. Spergiuro. Ma le indagini non si fermano e la piazza intanto inneggia i giudici. Colombo, Di Pietro, non tornate indietro! Amplificati da stampa e televisione, gli avvisi di garanzia suonano quasi sempre come una sentenza preventiva. Qualcuno non regge alla pressione e si toglie la vita. È il caso di Sergio Moroni. È il 2 settembre del 92. Non credo che questo nostro paese costruirà il futuro che si merita coltivando un clima da pogrom nei confronti della classe politica. Ma quando la parola è flessibile, non resta che il gesto. Mentre il governo Amato vara una finanziaria da 93.000 miliardi e la lira esce dal sistema monetario europeo, un'ondata di arresti colpisce i vertici delle maggiori aziende di Stato. La stessa sorte tocca ad alcuni dei più grandi gruppi privati. Sulla corruzione si indaga ormai da nord a sud. Tra gli indagati si contano centinaia di deputati e diversi ministri. La notizia più clamorosa, però, arriva a fine anno. C'è anche il nome di Benedetto Craxi, detto Bettino, nell'inchiesta Mani Pulite. Domenica 7 febbraio 1993 si costituisce il custode dei segreti finanziari del PSI. Le sue rivelazioni sui conti esteri del partito portano alle dimissioni di Craxi, che dopo 16 anni lascia la segreteria, e del suo delfino. Quando il portavoce di Arnaldo Forlani viene condotto in manette all'udienza preliminare, scoppia il caso delle cosiddette manette facili. Che effetto le ha fatto diventare improvvisamente il simbolo della DC in manette? Beh, di sgomento. Ormai si respira un clima da fine impero. Mentre Giulio Andreotti viene indagato per associazione mafiosa, vengono raggiunti da avviso di garanzia tutti i segretari del pentapartito, la coalizione che ha governato negli ultimi 12 anni. Bettino Craxi, Giorgio La Malfa, Renato Altissimo, segretario. Antonio Cariglia, Arnaldo Forlani. Ben presto arriva anche il turno del PDS, coinvolto in Mani Pulite dall'arresto di uno sconosciuto funzionario. Accusato di aver gestito una tangente da oltre 600 milioni di lire, Greganti resta in carcere per 6 mesi. Nega, tuttavia, di avere referenti nel partito postcomunista. Venerdì 5 marzo 1993, il Consiglio dei Ministri vara un provvedimento che depenalizza il finanziamento illecito dei partiti. Per Palazzo Chigi è l'unico modo per uscire dalla crisi innescata da Tangentopoli. Per gran parte dell'opinione pubblica è un intollerabile sopruso. 2 giorni dopo, il procuratore capo di Milano dà voce al dissenso del pool. Non consentiamo però a nessuno di presentare... Nelle stesse ore il Quirinale rifiuta di firmare il decreto. Il clima si fa sempre più teso. Il vento dell'antipolitica soffia sempre più forte. Di fronte al Parlamento, militanti del Movimento Sociale contestano duramente i deputati. Tra i banchi del Parlamento sventola un cappio. Onorevole Orsenigo, la richiamo all'ordine! Il referendum per l'abrogazione del finanziamento pubblico ai partiti si trasforma in un plebiscito. E oggi entriamo in una democrazia moderna. Subito dopo, Amato si dimette. Nasce un governo sostenuto da socialisti, democristiani e per la prima volta da postcomunisti e verdi. La guida però è affidata a un tecnico. Si è mossa contro di me un'azione... Giovedì 29 aprile 1993. Persecutorio evidente. La Camera respinge la richiesta di autorizzazione a procedere dei giudici di Milano nei confronti di Bettino Craxi. Per protesta, i ministri del PDS e dei Verdi lasciano il governo Ciampi. Il giorno dopo si registrano manifestazioni di protesta in tutta Italia. Una folla inferocita aspetta l'ex segretario socialista davanti alla sua residenza romana. Eccolo, eccolo! Stanno tirando di tutto! Martedì 20 luglio 1993. Nel carcere di San Vittore si suicida l'ex presidente dell'ENI. 3 giorni dopo, nella sua abitazione di Milano, si toglie la vita anche l'ex presidente della Montedison. La stessa sera scattano le manette per uno dei suoi più stretti collaboratori. Cusani, secondo i giudici, è la figura chiave dell'affare Enimont, la joint venture tra i colossi della chimica pubblica e privata che ha generato quella che i giornali definiscono la madre di tutte le tangenti. Giovedì 28 ottobre 1993. Dopo un'estate segnata dalle stragi mafiose, si apre il processo stralcio a Cusani. Il consulente finanziario racconta di aver versato per conto di Raul Gardini centinaia di miliardi di lire ai partiti politici di maggioranza e opposizione. I potenti della Prima Repubblica sono alla sbarra. Un giorno in pretura, il programma televisivo che trasmette le udienze fa registrare ascolti record. Le minacce al testa non le fa nessuno, sono io, mi tolgo la toga e me ne vado. Ma ti tolga quello che vuole. Domenica 27 marzo 1994. Le elezioni politiche certificano la fine di un'epoca. Dopo quasi 50 anni sulle schede non c'è più il simbolo della Democrazia Cristiana che l'ultimo segretario, Mino Martinazzoli, ha ufficialmente sciolto dopo un lungo travaglio. Il Partito Socialista è quasi azzerato. Sconfitta anche l'Alleanza Progressista guidata dai post-comunisti del PDS. Per la prima volta entrano a far parte del governo la Lega Nord e i post-fascisti di Alleanza Nazionale. Ma il vero vincitore è Forza Italia, il partito fondato poche settimane prima da un noto imprenditore. L'Italia è il paese che amo. 25.400 avvisi di garanzia, 4.525 arresti, 1.069 politici coinvolti dal solo pool di Milano nei primi 2 anni di indagini. 3 numeri per dare la misura del ciclone Tangentopoli, una serie di inchieste che ha scoperchiato un vero e proprio sistema della corruzione che avvelenava l'intero paese. Gli appalti venivano vinti in cambio del pagamento della tangente, la quale tangente spesso era almeno in parte destinata al finanziamento occulto del partito, dei partiti. Le modalità di questo scambio venivano decise sostanzialmente in una stanza, in una camera, in un salone, chiamiamolo come vogliamo, da alcune persone che stabilivano il che cosa bisognava fare, il quanto costava e chi doveva fare queste cose. Questo riguardava qualunque tipo di rapporto fra politica, amministrazione e imprese. Al sistema non si sottrae nessuno. Pagano le imprese di pulizia del Pio Albergo Tribulzio. Mio fratello è andato dal dottor Chiesa, il quale gli ha detto: qui c'è il contratto, voglio il 10%. Pagano i grandi costruttori come Salvatore Ligresti. Ingegnere, una dichiarazione, niente. Pagano i colossi industriali come Fiat e Olivetti. Le aziende del gruppo Fiat avrebbero pagato tangenti nei settori della cooperazione, in quello ferroviario, per costruzioni al sud, per gli ospedali, per la cura dell'AIDS, per l'acquisto. Gli hanno detto che dovevamo pagare come secondo lui pagavano tutti gli altri fornitori delle poste. Abbiamo concordato il pagamento, l'anno dopo 205 miliardi di fatturato. Qualcuno ha corrotto. Lo giudicavo anche onestamente il prezzo della democrazia. Qualcuno è stato costretto a pagare. Era un proprio un ricatto. In molti casi per gli inquirenti è difficile distinguere tra concussione e corruzione. Avevamo inquisito un giovane di 27 anni. Era morto il papà da 3 mesi e quindi ha preso le redini lui. Aveva fatto 3 appalti negli ultimi 3 mesi. Come si siede? Non 8 ore, ma 8 secondi, l'ha già confessato. La prima domanda ho fatta: hai pagato? Sì. Quando hai dato? 100. A chi l'hai dato? Giovanni. A un certo punto, visto che era troppo veloce l'interrogatore, gli ho chiesto: ma ho fatto una domanda più. Perché gliel'hai dato? E così faceva papà. Su Mix 24 continuiamo dopo la viabilità. Mix 24, i gialli della storia. Rieccoci a Mix 24 con le vicende di Mani Pulite. A Milano si è diffusa una pratica che i magistrati definiscono dazione ambientale. La dazione ambientale è quel sistema per cui nel corso del tempo non c'era più bisogno che qualcuno chiedesse, che qualcuno pretendesse o che qualcuno offrisse denaro o altra utilità in cambio di un favore nell'assegnazione e nella gestione di appalti, di forniture e di opere. La vittima alla fine è sempre la stessa, il cittadino. All'epoca di Mani Pulite, costruire 1 chilometro di metropolitana a Milano costa 192 miliardi di lire, ad Amburgo 45. Per il passante ferroviario occorrono 100 miliardi al chilometro, contro i 50 spesi per lo stesso tipo di opera a Zurigo. Beneficiaria della maggior parte del flusso di denaro è la politica. Erano fissate delle percentuali, no? Quel che si raccoglieva a titolo di, si dice usualmente, tangente, veniva poi distribuito tra alcuni partiti secondo delle tariffe, delle percentuali prestabilite. Ai partiti che compongono la Giunta di Milano spetta il 4% di ogni appalto pubblico. Ogni tangente è suddivisa così: il 50% al PSI, il 25% alla DC e il restante 25% al PDS. Milano, 40 politici arrestati, 12 inquisiti, 31 imprenditori arrestati. Varese, arrestati 10 politici e 9 imprenditori, inquisito un politico. Pavia, arrestati 5 politici e un imprenditore. In quei mesi, come per contagio, sulla corruzione cominciano a indagare le procure di mezza Italia. Vercelli, arrestati 7 politici e un imprenditore. Il sistema infatti è sostanzialmente lo stesso dal Veneto alla Sicilia, da Roma a Napoli. Tangentopoli Sud è scoppiata. Sono i democristiani vincenti. Nel capoluogo partenopeo, in un solo giorno, i magistrati mettono sotto inchiesta 18 parlamentari. Il sistema delle tangenti ha trovato terreno fertile in una città dove proliferano da tempo voto di scambio e clientelismo. Giulio Di Donato, 3 avvisi. Di Pietro a voi! Lavoro a noi! Di Pietro! È un continuo allargarsi degli episodi della quotidianità della corruzione fino a quando uno si trova all'interno di un sistema bello compatto e funzionale. Un vero e proprio sistema dunque, quello di Tangentopoli, talmente radicato da generare, secondo i calcoli dell'epoca, un impatto sul debito pubblico tra 150 e 250 mila miliardi di lire, l'equivalente di tre finanziarie, lacrime e sangue. Ma chi erano oltre i politici i protagonisti del sistema? E di questo sistema gli imprenditori erano vittime o complici? Insomma, che rapporto c'era tra corrotti e corruttori? La risposta a queste domande ha scatenato un acceso dibattito che dura ancora oggi. E tra i protagonisti di quel dibattito c'è anche Francesco Cossiga, l'ex presidente della Repubblica, intervistato proprio nei giorni più caldi nell'inchiesta di Milano. È più grave essere corruttore o corrotto? Non credo che ci sia questa distinzione nel nostro paese. Cioè lei crede che fossero d'accordo? Punto. Ma certamente, la cosa grave non è che ci siano dei ladri, è che c'era un sistema nel quale tutti erano d'accordo, gli uni per guadagnare molto e gli altri per finanziare il sistema politico. Quindi non esistono imprenditori concussi secondo lei? Ma le sembra possibile che un segretario provinciale del Partito Socialista o Democrazia Cristiana siano concussori della Coggi e farò dell'imprese? Le procure volevano dagli imprenditori che facessero i nomi dei politici e perché potessero farlo più serenamente il reato fu considerato reato di concussione nel quale l'imprenditore era vittima della concussione esercitata dal politico anziché essere considerato corruttore, come in molti casi invece era, perché il corruttore aveva pagato il politico, ma aveva avuto in cambio enormi favori, e invece in questo modo, diciamo così, alcuni la fecero franca. E gli imprenditori divengono quasi un simbolo dell'antitesi ai partiti. Diventano coloro che si percepiscono e vengono percepiti come la classe, il gruppo che vendica la società, che si rivale su un sistema politico che li costringeva a pagare. Le inchieste, insomma, aprono la strada a profondi cambiamenti nella classe dirigente dei partiti, nel mondo dell'impresa, nel rapporto tra opinione pubblica e politica. Ma perché l'arresto di Mario Chiesa scatena una vera e propria valanga destinata a cambiare la storia del paese? E soprattutto perché proprio nel 92, così Ilvo Diamanti e Franco Cazzola. Il 92 banalmente viene dopo il 1989. Diciamo, nel 1989 cade e crolla il muro di Berlino, nel 1992 il muro di Berlino crolla anche da noi. Ebbene, la caduta del muro diviene, come dire, un fattore scatenante, mobilita tutto, in tutti i paesi dell'est ma anche dell'ovest. E guardi, proprio perché l'Italia era il paese col più grande partito comunista occidentale, ma anche perché era il paese, non a caso, con il più grande peso dello Stato all'interno dell'economia e della società, l'Italia era non soltanto l'ultimo geograficamente dei paesi dell'Occidente, ma probabilmente anche l'ultimo dei paesi del sistema socialista. Secondo me hanno contato anche altre cose, però ha contato soprattutto il fatto che erano cambiate nella società italiana due cose fondamentali per una società civile. Uno, il funzionamento della magistratura, o se volete meglio dire il corpo della magistratura. E dall'altra parte era cambiato il sistema dell'informazione, sia perché nuovi attori erano entrati nel sistema informativo, sia perché anche la stampa si è considerata, come dire, più libera per raccontare o ipotizzare le magagne, i furti, i casi di corruzione del ceto politico o del ceto pubblico in senso più lato. E allora, cambiato il mondo con il crollo del muro di Berlino, nel 92 può cambiare anche l'Italia. La fine della guerra fredda, infatti, ha conseguenze politiche, ma non solo. Mentre la stampa e l'informazione televisiva assumono un ruolo più incisivo, si afferma una nuova generazione di magistrati, forse più indipendenti rispetto al potere politico. tutti elementi che esasperano la crisi di quella che già da qualche anno viene definita la partitocrazia. Il problema è nei costi della democrazia. Il sistema, infatti, si fonda sui grandi partiti di massa che hanno ricostruito la democrazia nel dopoguerra, ma i cui costi negli anni si sono progressivamente dilatati fino a risultare fuori controllo. E questo proprio nel momento in cui la loro funzione storica viene messa in discussione. I partiti di massa portano al governo, portano nel Parlamento contadini, operai, artigiani, mentre prima la politica era questione di pochi, di oligarchie economiche. Questo hanno fatto i partiti di massa. La funzione storica dei partiti, però, già nel dopoguerra richiede un'ampia disponibilità economica. All'autofinanziamento si affiancano ben presto contributi di enti economici pubblici o parastatali e di grandi gruppi industriali. Addirittura poi c'era qualche forza politica che aveva anche contributi dall'estero. La Democrazia Cristiana negli anni 50 e 60 dagli Stati Uniti, il Partito Comunista dall'Unione Sovietica. E così come i partiti socialisti da vari altri componenti. Nei primi anni 70 esplode una serie di scandali sui contributi occulti versati ai partiti di governo da imprenditori pubblici e privati. Il 2 maggio 1974 il Parlamento approva la legge che introduce il finanziamento pubblico ai partiti. Complessivamente erano 60 miliardi tra Camera e Senato, 15 come rimborso di spese elettorali e 45 miliardi per il mantenimento dei partiti. Negli anni a seguire, tuttavia, il contributo pubblico si rivela insufficiente a far fronte all'aumento dei costi della politica. Sedi, sezioni, uffici, personale, congressi, convention, campagne elettorali. I partiti diventano macchine sempre più costose. Molte risorse poi sono assorbite dalla competizione interna tra le correnti. La mia corrente regionale, non la mia corrente nazionale, costava 20 milioni al mese tra fitto, utenze, collaboratori. Senta, onorevole Amato, comunque adesso si dice che i partiti più o meno costano 3.000-3.500 miliardi l'anno, è vero? Guardi, io questo non lo so, ho netta la sensazione, mi scusi, che i partiti costino di più dell'insieme del contributo pubblico. Quanto che ricevono dallo Stato, che credo che arrivi a poche centinaia di miliardi, quindi, 250, quindi 300, comunque, se di forse più, il resto sbaglio. Più o meno sono tangenti. Evidentemente c'è dell'altro, no, io non sono un grandissimo esperto perché se lo fossi sarei a San Vittorio. A quest'ora. Senta, onorevole Amato, comunque ammettiamo per un attimo che questo costo intero della politica sia pagato in modo corretto, in modo legittimo. Ecco, qual è oggi il vantaggio per la società di fronte a questo costo, se c'è? Vede, la democrazia è destinata a costare, cioè non si può pensare che il processo democratico sia un processo che si ottiene gratis. Il punto si è che della democrazia è sopportabile il costo quando io vedo il risultato ecco. In termini di attività. Ecco, allora io devo pagare per mantenere lei o me o qualcun altro le nostre vite sì. Private, e allora lo scopo io bene. Lo perdo. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Mix 24, i gialli della storia. Bentornati su Mix 24. Nel 1992, dunque, quando ha inizio l'inchiesta Mani Pulite, il sistema della corruzione sembra aver raggiunto la sua massima espansione e nello stesso tempo un punto di rottura. Grazie alle confessioni di decine di imprenditori, i giudici di Milano individuano nella politica il cuore del sistema e la fattispecie di reato più contestato diventa il finanziamento illecito dei partiti. Il 3 luglio del 92 Bettino Craxi prende la parola e pone il problema del finanziamento della politica. Ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto benissimo e che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. Non credo che ci sia nessuno in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro. Ha ragione, e aveva ragione. Cioè, in realtà, come dire, è l'unico che ha... possiamo dire la sfrontatezza, ma anche il coraggio di dirlo, pensava di poterlo fare, però Craxi in quel modo divenne il portabandiera ideale della partitocrazia, cioè del potere ingiustificato dei partiti. Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. Deponendo al processo Cusani il consulente finanziario accusato di aver versato miliardi ai politici per conto di Raul Gardini, Craxi rivela che il PSI ha raccolto tra il 1987 e il 1991 contributi per 186 miliardi di lire. E quello era il fabbisogno aggiuntivo di un grande partito nazionale che concorreva alla stabilità politica del paese e allo sviluppo di una miriade di attività democratiche. Craxi riduceva tutto al finanziamento dei partiti, siamo tutti colpevoli, ma in realtà lui non vedeva o negava l'elemento in più che il craxismo, il rampantismo socialista aveva portato nella vicenda politica italiana, e cioè quel ridursi della politica ad uno scontro di potere tra democristiani e socialisti che aveva moltiplicato i fenomeni di corruzione, i rapporti impropri tra economia e politica. Nel corso del dibattimento, seguito in TV da milioni di telespettatori, la classe politica da anni al governo è costretta ad una serie di improbabili smentite e di imbarazzate ammissioni. Quanti soldi avete stanziato per il PSI? Quanto meno 1,5 miliardi. A me personalmente non hanno mai dato una lira. 500 milioni in contanti. 300 milioni. Mi consegnò una busta con 200 milioni. Quanti soldi bisognava dare al segretario politico della DC? 1,5 miliardi. Lo nego nel modo più assoluto. In moltissimi casi non erano finanziamenti ai partiti, erano finanziamenti alle persone, ai gruppi. Il vero e proprio finanziamento ai partiti ha rappresentato una piccola parte della vicenda di Tangentopoli. Avete sentito Massimo D'Alema? Finanziamento illecito dunque, ma anche corruzione e concussione. Denaro per i partiti, ma anche molti casi di arricchimento personale. Dopo alcuni mesi, lo abbiamo sentito, i segretari di tutti i partiti di governo, a cominciare dalla DC e dal PSI, sono raggiunti da avvisi di garanzia che decretano di fatto la fine della loro carriera politica. La tempesta giudiziaria però non travolge l'opposizione. I vertici del PC-PDS, un partito che pure è stato coinvolto nelle prime indagini condotte a Milano, sembrano risparmiati dallo scandalo. Perché? Già nella primavera del 92, diversi esponenti del PDS milanese risultano coinvolti nell'inchiesta a mani pulite. Io ho le mani pulite e chiedo conto a quei compagni di Milano che sono andati su una linea diversa dalla linea che noi avevamo indicato alla svolta. Malgrado la presa di distanza dei vertici del partito, le fonti di finanziamento del PC-PDS continuano a far discutere. E riferiamoci al maggiore partito di opposizione. Cioè al Partito Comunista, il quale non è mai stato un partito povero, aveva costruito in Italia la macchina burocratica più potente e più organizzata dell'intero mondo occidentale, e per questo si avvaleva di un finanziamento che proveniva in gran parte da fonti illegali. Primo marzo 1993. La Procura di Milano arresta Primo Greganti, imprenditore ed ex funzionario del PC. E lui, che secondo il manager del gruppo Ferruzzi, Lorenzo Panzavolta, gli avrebbe indicato il numero di conto di una banca di Lugano, il presunto conto del PC, smentito ripetutamente dal PDS. Davanti al magistrato si avvale della facoltà di non rispondere. Ora è in carcere. Greganti resta a San Vittore per quasi 3 mesi. Di fronte al pool ammette di aver ricevuto denaro, ma nega ogni coinvolgimento del partito. mai detto niente? Mai? Che opinione ha di questo? Il denaro di Greganti non era andato al nostro partito e quindi il reato di corruzione cadde perché non era mai accaduto quell'episodio. Allora, si parla a vanvera. Durante il processo Cusani, inoltre, il Partito Comunista viene chiamato direttamente in causa per un presunto finanziamento illecito ricevuto dal gruppo Ferruzzi nell'autunno 1989. Chiesi se realmente erano stati pagati e a chi erano stati pagati. Il dottor Cusani mi disse che erano stati pagati alla DC, al Partito Socialista e al Partito Comunista. Mi spiegò che non aveva partecipato all'incontro, ma che il dottor Gardini gli disse in un'occasione di un incontro che avrebbe dovuto fare con gli esponenti del Partito Comunista a Roma di preparargli una somma pari ad 1 miliardo di lire. Secondo Leo Porcari, la guardia del corpo di Gardini, il finanziere avrebbe incontrato Massimo D'Alema nella sede del PC in via delle Botteghe Oscure a Roma. Ricorda se per caso in una occasione o in più occasioni lei ha avuto modo di accompagnare Gardini dall'onorevole D'Alema o Chetto o entrambi. Ci ha ricevuto, mi pare, se non vado errato, l'onorevole D'Alema. Siamo saliti, non ricordo se al secondo piano, sono entrati dentro una porta, chi c'era di là non lo so, posso immaginare che ci fosse Occhetto, ma non ne sono sicuro, poteva essere anche l'ufficio di D'Alema. Occhetto personalmente non l'ho visto. D'Alema, grazie. D'Alema l'ha visto riceverlo. Sì, ha ricevuto Gardini e l'ha accompagnato. Io scrissi al presidente del tribunale dicendo che quella testimonianza era falsa, era stata costruita non so da chi, non faccio dietrologie, ma era completamente falsa. Che io ero in grado di dimostrare la falsità di quella testimonianza, anche perché all'epoca ero direttore dell'unità, non lavoravo a Botteghe Oscure e in quel determinato giorno mi trovavo a Mosca. E sicuramente quel giorno Gardini a Botteghe Oscure ci è andato, ma a quale piano e dove si è fermato, lì non potevamo arrivarci. Io più volte ho chiesto al presidente del tribunale, voglio sentire D'Alema, voglio sentire Occhetto, perché voglio sapere. E il presidente del tribunale non ha permesso che queste audizioni avvenissero. Non lo ha permesso semplicemente perché diceva, sono ininfluenti, sa perché? Perché nel frattempo amnistiati. Il presidente del tribunale disse, ma la questione non è attinente al processo, quindi io non potei essere sentito. E rispose, sarà la procura ad approfondire, perché indubbiamente quella testimonianza era una testimonianza che alludeva ad un'ipotesi di reato, c'era una notizia criminis, non ci fu nessuna inchiesta. Che evidentemente qualcuno era ben consapevole della falsità di quella operazione, falsa, ripeto, un falso clamoroso, avrei potuto dimostrare molto facilmente, e tutto fu lasciato cadere. Il mancato coinvolgimento dei leader post-comunisti in Tangentopoli continua a far discutere. I giudici del pool di Milano sono stati accusati a più riprese di non aver indagato con la stessa determinazione su tutte le forze politiche. Proprio nel 2012, a 20 anni di distanza da Tangentopoli, nell'intervista rilasciata a Marco da Milano per il libro Eutanasia di un potere, l'ingegner Carlo De Benedetti ha dichiarato, leggo testualmente, certamente il PC è stato protetto, perché sia Borrelli che D'Ambrosio volevano distruggere un sistema di potere, non tutti i partiti, non tutta la politica. Avrei voluto intervistarlo io, De Benedetti, forse sarebbe stato meglio che non un suo dipendente, perché gli avrei detto la verità, cioè che non è vero. Ecco, ho portato con me le carte per essere ancora più preciso, diciamo. Contro i dirigenti e gli amministratori del nostro partito ci furono decine di indagini giudiziarie. Io ho una collezione di sentenze, o sentenze istruttorie o sentenze in dibattimento. Tutti questi processi si sono conclusi con l'assoluzione o con il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato. E tutto questo ha impegnato la magistratura in prolungatissime indagini. Io sono stato indagato dalla Procura di Roma su denuncia di Craxi, non di De Benedetti, di Craxi in quel caso. Ci fu una lunga indagine e fui prosciolto. perché i fatti non sussistevano. Sono stato indagato io e Occhetto dalla Procura di Venezia, dal dottor Nordio, un'indagine che è durata 7 anni, 8 anni, con perquisizioni, testimonianze, che si è conclusa perché il reato non sussiste. Non solo, ma io ho denunciato il magistrato per avere ritardato l'opera di giustizia e alla fine egli è stato condannato a risarcire 9.000 euro a me e 9.000 all'onorevole Occhetto. Fin qui la circostanziata difesa dell'onorevole D'Alema rispetto all'accusa di favoritismo da parte delle procure nei riguardi dei dirigenti dell'ex Partito Comunista. Più difficile naturalmente dar conto delle vicende giudiziarie e dei singoli dirigenti locali del partito indagati e in seguito assolti o condannati. Ma in seguito alle polemiche sulle indagini e sulla loro imparzialità, già negli stessi mesi di Tangentopoli l'operato dei giudici di Milano è oggetto di aspre polemiche. Se da un lato infatti, fin dagli esordi di Mani Pulite, l'opinione pubblica si schiera apertamente con la magistratura, dall'altra le migliaia di avvisi di garanzia, di perquisizione e arresti disposti dai giudici vengono amplificati da giornali e televisione e il rischio è quello di una sentenza preventiva, di una gogna mediatica che distrugge la vita. Nei primi mesi del 1992, l'inchiesta anticorruzione dei giudici di Milano riscuote consenso e suscita entusiasmo sui giornali, in TV e nelle piazze. Colombo, Di Pietro, non tornate indietro! La società si affida ai magistrati, che diventano i simboli. Chi l'hanno arrestato? Sì. Vai Di Pietro! Tenete conto che quella è la fase di avvio anche della commistione tra politica e spettacolo, tra comunicazione e politica. Un avviso di garanzia suonava condanna a morte e apriva il titolo dei giornali. L'assoluzione 3 anni dopo, tanti sono i casi, a stento compariva in una notizia breve, diciamo, e quindi con uno squilibrio impressionante dell'informazione. Quando però appaiono le immagini del democristiano Enzo Carra, portavoce di Forlani, condotto in manette all'udienza preliminare, da più parti si grida alla gogna mediatica. Al di là dell'esito giudiziario della sua vicenda, quella di Enzo Carra in manette resta un'immagine simbolo perché tra azione giudiziaria e sistema dell'informazione in quelle settimane si è creato un cortocircuito perverso, duro a morire. L'avviso di garanzia è stato trasmesso all'opinione pubblica come giudizio di colpevolezza e questo ha dato luogo a un fenomeno che è quello della gogna mediatica. Anche perché tra alcune procure e i giornali si stabilì un rapporto assolutamente improprio. E la gogna mediatica, a mio personale avviso, è spesso una pena in concreto per la persona che la subisce, superiore alla stessa condanna in sede penale. Giornali e magistratura erano due aspetti di una potente offensiva contro i partiti, insomma non a caso poi dietro i giornali ci sono gruppi economici, finanziari, non è che in Italia ci abbiamo i giornali liberi, diciamo. I giornali rappresentano una voce forte di una parte del paese che in quel momento voleva sgombrare il campo di un ceto politico considerato corrotto, inefficace e quindi partì un'operazione che travolse la politica. Un'operazione contro la politica. Quello di D'Alema è un giudizio netto, chiaro, senza mezze misure. Ma non c'è in quei mesi soltanto la gogna mediatica, c'è anche un uso frequente da parte dei giudici della custodia cautelare, in carcere che secondo qualcuno è addirittura un abuso. Negli anni di Mani Pulite il Pool di Milano è come un treno in corsa che giorno dopo giorno macina arresti e avvisi di reato, ma in questa corsa non mancano le tragedie. Manette facili, carcere preventivo, suicidi. Le polemiche attorno ai metodi del pool e l'ossessione mediatica per l'inchiesta su Tangentopoli innescano un durissimo scontro tra poteri dello Stato. la tensione tra politica e magistratura giunge all'apice nel marzo del 93. I parlamentari inquisiti sono ormai 183 e sulla crisi innescata dall'inchiesta di Milano interviene il governo presieduto dal socialista Giuliano Amato. E proprio con la testimonianza del presidente del Consiglio di allora è possibile ricostruire nel dettaglio tutti i passaggi di uno dei momenti decisivi della stagione di Tangentopoli. Venerdì 5 marzo 1993. Il governo Amato è riunito per discutere un pacchetto di legge in materia di giustizia messo a punto dal guardasigilli Giovanni Conso. Includeva sostanzialmente la depenalizzazione del finanziamento dei partiti, ma non dei reati che questo aveva portato con sé. La concussione e la corruzione in particolare non venivano toccati. Il provvedimento è considerato dal governo la soluzione politica a Tangentopoli. Il finanziamento illecito non sarà più un reato penale, ma semplicemente amministrativo. Inoltre, chi patteggia eviterà il carcere, ma dovrà restituire il maltolto. Non dovranno più occuparsene i giudici, ma un'apposita autorità di vigilanza. Il rischio, quindi, è l'estinzione della maggior parte dei processi e un sostanziale blocco delle indagini. Non era un colpo di spugna, era una trasformazione da penale ad amministrativo di un illecito che rimaneva illecito. A far discutere il Consiglio dei Ministri, inoltre, è la proposta di Nino Andreatta di sospendere dall'incarico i parlamentari coinvolti nei casi di finanziamento illecito. La riunione a Palazzo Chigi si prolunga. Quel venerdì Amato, per prudenza giusta, lasciò il Consiglio dei Ministri in riunione e andò dal Capo dello Stato, da Oscar Luigi Scalfaro, per definire con la virgola e con il punto, come si suol dire, il testo del decreto Conso. No, non è corretto. C'è, come sempre in queste ricostruzioni, un principio di verità, ma non la verità. A un certo punto il Consiglio dei Ministri, io lo interruppi, per rispondere ad una telefonata del presidente Scalfaro che stava a Ciampino. Quindi io ho parlato con Scalfaro 5-10 minuti per telefono, non ho messo il punto e la virgola con lui, perché lui sosteneva in quella telefonata la stessa cosa di Andreatta. Riteneva importante che ci fosse la sospensione dalla carica di parlamentare dei parlamentari pizzicati col finanziamento illecito. Gli dissi: guarda, non lo possiamo mettere in un decreto legge, il governo non può decidere delle vicende dei parlamentari, ma lo faremo mettere nella legge di conversione. Capì dalla sua risposta che ne prendeva atto, ma un po' malvolentieri, e rientrai in consiglio con la sensazione di questo malvolentieri. Malgrado le perplessità del Quirinale, in serata il Consiglio dei Ministri approva il decreto. Il Consiglio dei Ministri lo approvò. Invece di mandarlo subito alla firma del Capo dello Stato, l'avvocato Frini, capo dell'ufficio legislativo di Palazzo Chigi, ritardò la notte perché voleva un attimo verificare sul piano lessicale un decreto che aveva peraltro alcuni aspetti delicati. Però quel ritardo fu fatale. Il giorno decisivo per la vita del decreto fu in realtà la domenica. La mattina della domenica si presentò addirittura davanti alla televisione il dottor Borrelli, capo allora della Procura di Milano. Come magistrati abbiamo il dovere inderogabile di applicare le leggi dello Stato quali che esse siano, salvo il dovere altrettanto inderogabile di eccepirne la illegittimità costituzionale quando questa ricorra. Riteniamo infatti che il prevedibile risultato delle modifiche legislative approvate sarà la totale paralisi delle indagini e la impossibilità di accertare fatti e responsabilità di chi li ha commessi. La cosa decisiva era la frase finale, nella quale diceva che sarebbe stato un totale impedimento alla prosecuzione delle indagini. Indiscutibilmente una presa di posizione del genere pesò, penso, sul Capo dello Stato e pesò sui presidenti delle Camere. Domenica 7 marzo, a poche ore dalla conferenza stampa di Borrelli e dopo aver consultato i presidenti delle Camere Spadolini e Napolitano, il Capo dello Stato convoca nella sua abitazione privata Giuliano Amato. Arrivò la telefonata del Capo dello Stato che mi disse: Giuliano, fai un salto a casa mia. E lui mi disse che i presidenti delle Camere, nel clima che si era creato, ritenevano che sarebbe stata assai difficile e preoccupante la gestione parlamentare del decreto, che appunto il clima si poteva surriscaldare al di là dell'utile e che comunque c'era un argomento costituzionale sul quale i suoi uffici avevano riflettuto che rendeva per lui problematico firmarlo il decreto. L'argomento costituzionale era il referendum imminente sulla legge sul finanziamento dei partiti. Per la prima volta nella storia repubblicana il Quirinale rifiuta di firmare il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Per come andarono le cose è possibile che se il Capo dello Stato lo avesse firmato sabato forse il decreto sarebbe entrato in vigore. Dunque, secondo Giuliano Amato, se il presidente Scalfaro avesse firmato il sabato quel decreto, sarebbe passato. E forse la storia di Tangentopoli sarebbe stata completamente diversa. Il provvedimento che prevede la depenalizzazione del finanziamento illecito viene invece ritirato e pochi giorni dopo, il 22 aprile del 93, il governo Amato si dimette. Il mancato varo di quel provvedimento però resta un episodio clamoroso e ancora molto controverso. Il decreto Conso era una soluzione politica o un colpo di spugna? Diversi i pareri di Gianni De Michelis e Giuliano Amato da quello del magistrato Gherardo Colombo. Il dovere del governo Amato era togliere di mezzo l'infinanziamento illecito, porre il problema per il futuro di evitare che si ripetesse questo, ma togliere questo argomento dall'uso e dall'abuso da parte non della giustizia ma di alcuni giudici, e questo avrebbe fatto finire Mani Pulite. È vero quello che dice De Michelis a partire dal febbraio. È dal febbraio che si comincia a dire, lo dice anche Di Pietro, che occorre una soluzione politica per Tangentopoli. Poi sa, queste due parole magiche nascondevano contenuti diversi, a volte mai conosciuti a seconda di chi le diceva. Certo si è che ci fu un dibattito in Parlamento nel quale la maggioranza affidò al governo il compito allora di trovarla questa soluzione politica, ma questo accadde a febbraio 93. Sarebbe stata una specie di amnistia più che essere una soluzione politica. Abolire un reato e basta vuol dire continuare a mantenere lo stato delle cose così come erano precedentemente. Il braccio di ferro sul decreto Conso tra politica da una parte, magistratura, media e opinione pubblica dall'altra è il prologo del tracollo del sistema. La Prima Repubblica ha i giorni contati. Il 18 aprile del 93, con un referendum, gli italiani cancellano il finanziamento pubblico ai partiti e contemporaneamente scelgono il sistema elettorale maggioritario. Un anno dopo, nel marzo del 94, le elezioni segnano il crollo dei partiti storici e la definitiva affermazione dei nuovi protagonisti spinti dal vento dell'antipolitica.